Salve a tutti e a tutte da Canna e Camicia, cioè il vostro preferito e unico programma di meccanica su Radio Wombat. L'ultima volta ho sommariamente parlato della storia dello scooter, di cui sinceramente non mi importava niente, e oggi parlerò dell'elemento principale di ogni mezzo a due e quattro ruote, cioè le ruote. Invenzione incredibile risalente addirittura al quinto millennio a.C. Delle ruote sembrerebbe che ci sia poco da parlare, invece non è per nulla così. Infatti, ogni progetto motoristico, che ovviamente non sia né un motoscafo né un aereo, parte dal disegno delle ruote. Quindi, cosa vuol dire e cosa comporta la ruota bassa e quella alta? Prima di tutto, cosa si intende per ruota bassa? Si intende che il raggio del cerchio è di piccole dimensioni, cioè più o meno compreso tra i 10 e i 13, ma anche 14 pollici, borderline proprio. Gli scooter a ruota alta invece hanno un raggio che più o meno va dai 14 ai 16. Perché si misura in pollici? Non si sa, non c'è dato saperlo, è una cagata, ma è così. Ruota bassa, quindi aiuta la manovra di salita e di discesa dallo scooter, abbassa la pedana da terra, abbassa il baricentro, facilita e rende più elastico il disegno estetico e aumenta la possibilità di creare spazi sottosella. Prima ho parlato di baricentro. Il baricentro è essenzialmente il punto ideale di equilibrio di un oggetto. Allora, partiamo con un po' di considerazioni meccaniche e fisiche. La ruota piccola significa che probabilmente sarà più leggera sia per il peso del cerchio che per quello della gomma, ma dovrà girare più velocemente per far mantenere la stessa velocità allo scooter rispetto a una di ruote con raggio maggiore. Cosa comporta? Prima di tutto esiste una resistenza di rotolamento, cioè una forza che si oppone al rotolamento della ruota. Questa forza è direttamente proporzionale alla velocità della ruota e al carico più altri parametri. I principali sono il carico e la velocità. Con il carico si intende il peso che grava su quella ruota, il che significa che una ruota piccola a parità di carico rispetto a una grande non sarà buona per le alte velocità perché svilupperà molta resistenza al rotolamento. Ma mettiamo un po' di musica dove all'interno c'è la parola wheel e quindi All Green con Driving Wheel. I give my baby anything. Rieccoci al pippone di oggi. Cos'altro comporta il piccolo raggio e il piccolo peso a livello fisico? Allora, comporta un minore effetto giroscopico. Cos'è l'effetto giroscopico? L'effetto giroscopico, insieme a quello inerziale, sono i motivi per cui essenzialmente state in equilibrio e mantenete una traiettoria voluta su qualsiasi mezzo a due ruote. L'effetto inerziale è semplice, è proporzionale alla velocità e al peso. E più alto, più tende a farti tenere la traiettoria e la velocità iniziale. Immaginatevi di lanciare in aria una cosa pesante e di riuscire a lanciarla molto velocemente. È chiaro, come più sarà pesante e veloce, meno sarà perturbata dai fenomeni esterni. L'effetto giroscopico invece è più complesso, è proporzionale al peso e al diametro della ruota. Per avere un'idea, dovreste provare a tenere in aria una ruota della bicicletta, sostituendovi alla forcella. Fate girare la ruota velocemente e poi provare a simulare una sterzata, quindi muovere tipo la mano destra avanti e la sinistra leggermente indietro. Vedrete come l'effetto giroscopico tenderà a opporsi alla vostra volontà di girare e vi spingerà la mano destra, che quindi avete portato in avanti, verso il basso e la mano sinistra che stavate portando indietro verso l'alto. Questo, nella dinamica dello scooter, comporta che ci sarà una forza che tenderà sì a tenervi eretti, però allo stesso tempo tenderà a uccidervi quando cercate di entrare in una curva, perché vi spingerà a cadere verso l'esterno della curva. Questo, appunto, insieme ad altre caratteristiche del telaio, come la vancorsa, e ne parlerò quando parlerò del telaio, e il coefficiente di attrito delle gomme, generano l'effetto raddrizzante, cioè quella forza che tenderà a rialzarvi dalla piega o a opporsi alla vostra volontà di piegare, ma allo stesso tempo vi terrà eretti su due o una ruota. Altro pezzetto musicale è Calexico con Under the Wheel. To see, but there was too much talking over each other. And find me some peace and mindful heart of breaking the tide when the fighting starts. Power's down and the town goes dark. When words fail, we scatter under the wheel. Shaping you over gold, but somehow you manage to stay afloat. Defy the system and avoid in the eyes that still will be. Surrender the worlds where the lovers leap out of the fray to the infinite deep. Some peace a month. beautiful heart are breaking the tide when the fighting starts. Power's down and the time goes dark. When the world's fair, we scatter under the wheels of the war machine. Always someone else's scheme. Show me a sign when the world falls apart. Coming together from all of the corners tonight. From the quarter to the sea. And the threads that we Un'altra cosa intuitiva è che maggiore sarà il raggio della ruota, più facile sarà superare un ostacolo e quindi avremo un maggior comfort nelle strade dissestate. Questo è intuitivo, ma perché? Per due motivi. Uno è che ovviamente l'altezza massima dell'ostacolo superabile sarà sempre inferiore al raggio della ruota e che quindi più grande sarà il raggio, più basso sarà il punto di contatto rispetto al centro della ruota. Questo ovviamente diminuirà tantissimo la resistenza dell'avanzamento. L'altra è che a parità di grandezza dell'ostacolo è ovvio che le ruote, seppur di raggi diversi, si dovranno sollevare della stessa grandezza, ma differente sarà la velocità con cui si salirà, perché aumentando il raggio aumenterà anche la circonferenza e così ci vorrà più tempo per superare l'ostacolo e tutto sembrerà meno brusco. Ricapitolando quindi, le ruote piccole è uguale a poche forze giroscopiche, poche forze inerziali, perciò più agilità ma meno stabilità. La ruota bassa creerà quindi resistenza al rotolamento, quindi più alti consumi e sarà anche peggiore nel superare gli ostacoli. Però occuperà meno posto e quindi si creeranno spazi liberi per i portaoggetti e si genereranno meno vincoli per i disegnatori. Ma il baricentro basso aiuterà la stabilità e la manovre a bassa velocità. In più, avendo la pedana bassa, risulterà più facile salire e scendere. Per questi motivi si rendono particolarmente efficienti e comodi in città, per cui inizialmente quasi tutti gli scooter avevano le ruote basse. Oggi invece, essendo equipaggiati con motori più potenti, potendo raggiungere alte velocità e essendoci dei crateri invece delle buche, quelli a ruote alte hanno conquistato il mercato. Ok, ultimo pezzettino, poi basta cerchi, gomme e quindi l'ultima parte. E quindi Kill the Noise con Dolphin on the Wheel with Dillion Francis. Christmas? No. Do you love your mommy? No. Do you love your daddy? No. Do you love your grandparents? No. Is there anything you like? Allora, quindi parliamo di gomme o pneumatici. Converrete con me che senza l'attrito delle gomme non potremmo fare niente. E quindi semplicemente è comprensibile l'importanza del coefficiente d'attrito. Esso influenza tantissimo il momento raddrizzante, cioè le forze di cui parlavo prima. Essenzialmente esse fanno praticamente perno sul battistrada. Infatti, guidando su fondi molto scivolosi, non si avrà il controllo e si cadrà come pere cotte. Il coefficiente d'attrito va da 0 a 1 e dipende dalla combinazione pneumatico più fondo stradale. Ad esempio, aumentando al massimo la superficie di attrito a parità di grandezza del pneumatico e quindi eliminando le scanalature, quindi in gergo si chiamano gomme slick, sarà ottimo su fondi lisci e asciutti, ma disastroso su fondi bagnati, in quanto si creerà un piccolo film di acqua tra gomma e asfalto, portando il coefficiente d'attrito quasi a zero. Quindi cosa succede? Se il coefficiente d'attrito è 1, essendo un moltiplicatore, tutte le forze di cui parlavo prima, sono moltiplicate per 1. Se invece il coefficiente d'attrito è 0, quindi un fondo scivolosissimo, o come dicevo prima nel discorso del film di acqua che si chiama aquaplaning, il coefficiente d'attrito, essendo che un moltiplicatore, porterà a 0 tutte le altre forze, il che significherà una perdita totale del controllo. Ora una cosa molto utile, diciamo che finora si è fatto due chiacchiere. Impariamo a leggere le misure sui pneumatici. Di solito si presentano tre numeri. Allora, prenderò come esempio una ruota posteriore di un comunissimo Honda SH 125-150. Si legge 120 slash barra 80 trattino 16. Cosa rappresentano questi tre numeri? Allora, l'ultimo a destra, quindi l'ultimo, è la misura del cerchio, cioè 16 pollici. Il primo a sinistra, invece, cioè 120, sono i millimetri di larghezza del battistrada. Il numero centrale, quindi sarà l'altezza del battistrada, ma non in millimetri, ma in percentuale sulla larghezza. Quindi, riepilogando, il pneumatico è largo 120 mm e è alto l'80% di 120 mm, quindi 96 mm, e monterà su un cerchio di 16 pollici. Insomma, una misura assoluta in millimetri, una in percentuale e una in pollici, cioè bisogna essere proprio stronzi. Per capire quanto queste misure siano importanti e come possono cambiare di molto la dinamica della moto e dello scooter, basta pensare che anche soltanto la pressione dello pneumatico cambierà sia l'impronta a terra del battistrada, sia il diametro totale del cerchio più la gomma. Quando quindi pensate di modificare i vostri scooter, modificando anche soltanto la misura degli pneumatici, ricordatevi che andrete a modificare sensibilmente tutte le forze di cui abbiamo parlato prima. Due cose importanti che ho lasciato e magari ne parlerò un giorno se deciderò di fare una serie sulle moto, ma che potrete approfondire anche da soli e che ovviamente colpisce anche lo scooter, è un fenomeno che si chiama deriva del pneumatico e un altro che è il cambiamento del diametro in piega, ovviamente il diametro della gomma, in piega per via della forma curva degli pneumatici, caratteristici ovviamente della motocicletta e dello scooter, e cosa questo cambiamento di diametro cosa comporta. Nella prossima puntata parlerò di tutto ciò che vi connette alle ruote e quindi telaie e sospensioni. Ciao a tutti e a tutte, ciao Wombati! I got a dirty soul. I'm gonna let it flow, let it flow. Bentornate, bentornati a tutti in diretta con Radio Wombat, ancora dalle regie casalinghe. Oggi è il 2 maggio e sì, ci è permesso di fare le passeggiate, non ancora quello di andare a giro, quindi siamo ancora con le regie casalinghe a casa, almeno per un po'. Speriamo al più presto di svoltare questa incresciosa situazione, che io mi sono stancato di parlare al microfono del computer, che poi non si sente neanche mai bene, sembra che parlo chiuso in una cassaforte vuota. E vabbè, no, ho detto cassaforte vuota perché vi volevo giusto parlare di banche, nel senso che nelle notiziole che mi sono capitate sott'occhio questa settimana ce n'era una che mi è piaciuta, perché essenzialmente restituiva quell'immagine del hacker Robin Hood, o comunque di truffatore scaltro, ma che sa a chi andare a rubare i soldi. E ho trovato questa notizia che alcune aziende, alcuni fondi sono stati derubati da un gruppo che è stato denominato The Florentine Banker, che non ho cercato di capire perché questa cosa del banchiere fiorentino, no? Andando a indagare le origini di questo accostamento, cioè di fiorentino e banchiere, perché vabbè, è noto appunto che ce ne sono stati tanti di banchi, di banchieri, di banche famose a Firenze, no? E è interessante che tutte quante condividono un po' questa ascesa e questa discesa che caratterizza un po' quello che noi, il nostro immaginario della finanza, no? Cioè te vai una up up up up e poi per qualche motivo down down down fallisci e fine. E un po' tutte le banche del Granducato di Toscana hanno fatto un po' questo tipo di ascese, essenzialmente quasi tutte per debiti insoluti, di crediti non riscossi, insomma, con i sovrani dell'epoca. Nel senso che si tendeva a imprestare i soldi un po' per convenienza, un po' per necessità, cioè se volevi fare affari, fare il mercante e avevi i soldi ed eri anche una banca, allora per avere magari le possibilità di scambiare delle merci in una regione piuttosto che in un'altra, in uno stato piuttosto che in un altro, tendevi a essere condiscendente con le esigenze dei sovrani, della nobiltà, eccetera. E infatti, tipo noi quando insomma i banchieri dell'epoca, quando si trattò in qualche modo di schierarsi durante la guerra dei cent'anni, non si seppero schierare, in bella sostanza, imprestarono quindi soldi un po' a tutti. E quindi quando re d'Inghilterra, che insomma le cose gli giravano così e così, o comunque quando le casate inglesi o francesi decidevano che non pagavano, tendenzialmente anche l'altra, la corrispondente, cioè l'avversaria, diceva: vabbè, però se non paga lui non pago neanch'io, quindi insolvenza e quindi grossi crack. Ed era proprio una cosa tipica di questa roba qui. Però nella vicenda che invece vi volevo raccontare si tratta di una truffa, che è stata perpetrata a un fondo di investimento cinese, un venture capital cinese, che pensava di investire in una startup, e in realtà si è fatto fregare un milione di dollari in una maniera abbastanza buffa, nel senso che Era chiaramente una truffa, però era una truffa molto ben congegnata perché mirava su, cioè tendeva a focalizzarsi su alcuni personaggi ben precisi negli alti vertici aziendali. E poi, secondo me, c'era anche una profonda conoscenza di quello di cui si stava andando a parlare. Quindi io, se dovessi cercare di capire chi sono questi truffatori, cercherei qualcuno che comunque aveva conoscenze interne, perché quello che facevano sostanzialmente era agire in una maniera neanche troppo articolata. Cioè, loro prima tentavano in qualche modo di prendere il possesso di account di posta di vertici aziendali in vari modi, non si capisce, qua si parla di phishing principalmente nell'articolo, quindi non modi elaboratissimi, però penso che, dato la conoscenza che dimostravano della questione, magari ci avevano messo anche altri sistemi di social engineering, però comunque erano entrati potentemente all'interno della corrispondenza aziendale, ecco, sembra. E poi con questo cosa si faceva? Qua citano una roba tipo mettevano mano ai filtri di Outlook nell'articolo. Cioè, praticamente nascondevano, indirizzavano, facevano dei filtri di Outlook per far sparire certe mail, no? Cioè, tipo io e proprio qui c'è un'altra cosa in realtà ancora. Loro re registravano dei domini molto simili a quelli dei legittimi operatori finanziari utilizzati da questo venture capital cinese. Cioè, tipo, se loro usavano, che ne so, bancapippo.com, quegli altri registravano, che ne so, bancopippi.com, cioè che ci assomiglia, no, bancapippi.com, no? Che un po' uno ci potrebbe cascare, ci assomiglia, oppure mettevano, che ne so, la S alla fine di un nome, se era un nome composto inglese, cioè se la giocavano un po' in maniera un po' così ammascata, facendo sparire le mail quelle giuste e poi continuando loro la conversazione. E facendo in questo modo sono riusciti a farsi accreditare in un conto di loro possesso appunto questa milionata di dollari che il venture capital cinese pensava di dare a una startup di non so dove, forse di San Francisco, una roba americana. Comunque buffo. E questo l'hanno appunto chiamato Florentine Banker, questo gruppo. E mettiamo un pochino di musica, via, e poi vi racconto anche qualche altra cosa. Oggi sarà molto, molto aneddotica la questione. Eccoci qua. Allora, musichetta. Eccomi di nuovo qua, eccomi di nuovo qua. Abbiamo parlato prima appunto di questo gruppo che è riuscito a truffare circa un milione di dollari a questo venture capital cinese. Continuiamo a parlare sempre di cose similari, però di una roba un po' più alla buona, anche un poco più teorica, però alla fine è un poco interessante. Si parla di Microsoft Teams, quindi una piattaforma che va forte ultimamente, e nel senso che siamo tutte a casa, la gente si è riversata, poi soprattutto il nostro Ministero dell'Istruzione l'aveva indicata come una delle soluzioni ottime per la teledidattica, in mancanza di strutture proprie ci siamo affidati alla Microsoft, che gentilmente ha offerto appunto dei contratti a uso gratuito per circa 6 mesi a personale docente, scuole, insomma non ho ben capito, poi tra 6 mesi verrà a dire vi è piaciuto, siamo diventati amici, vi facciamo l'offerta speciale. Insomma, ha buttato le basi, le reti da pesca per una bella pesca prossima avventura. Ebbene, questa piattaforma è stata al centro di un interessante. No, no, non dibattito, però insomma è stata al centro di un interessante caso di studio per quanto riguarda le cose hackerose. È interessante secondo me perché è venuta appunto fuori una vulnerabilità abbastanza teorica, ma non così tanto teorica, basata su una cavolata che però mette bene in luce alcune complicazioni delle architetture web fortemente distribuite. In particolare, per comunicare spesso, tipo se io ho un'architettura sparpagliata con tante macchine, tante componenti, quindi avrò un dominio principale tipo Microsoft.com, no? Per esempio, e poi ci avrò dei sottodomini vari, che ne so, database 1.microsoft, database 2.microsoft e via così, no? Cioè tanti sottodomini. Ora, Teams, nello specifico, mi sembra che ce n'abbia uno, che è quello su cui si basa un po', tutta, la parte web dell'applicativo, l'accesso web all'applicativo, che è .teams.microsoft.com. In particolare, i cookie, che sono semplicemente questa associazione di chiave, valore, testuali, che il vostro browser dove tiene sul vostro computer e scambia con il server. Perché? Perché è necessario ricreare in una sessione web spesso un meccanismo di memoria che altrimenti non c'è. Cioè io lo devo sapere se tu hai già fatto il login dentro un applicativo, se no ogni volta te lo fa rifare. Cioè io lo devo sapere, che ne so, se tu hai visitato la 40ª pagina di un elenco che io ti proponevo in pagine, per sapere se mi fai, vai in quella dietro, io così vado alla 39. E beh, non è proprio l'optimo usare i cookie per questo, però tendenzialmente immaginatevi questo tipo di scenari. Per l'autenticazione i cookie sono abbastanza utilizzati. In particolare Teams li utilizza in una forma che si chiama JWT, è un cookie già molto elaborato con delle protezioni crittografiche, così. Però la cosa interessante è il tipo di estensione che hanno questi cookie e a cosa servono. Allora, qualche ricercatore ha notato che in base a due cookie in particolare, cioè a due precisi a due chiavi, noi otteniamo l'accesso a un sacco di robe dell'applicativo, ma non solo. Ad esempio, spesso per comunicare tra una parte e l'altra, cioè tra questi vari sottodomini di cui vi dicevo, no? I vari teams.microsoft.com e i vari, che ne so, database 1.picture db. Dove tengo share o che ne so io, cioè cloud, cioè tutti, ci avranno tutti questi sottodomini. Ecco, siccome appunto devo spaziare in tutti questi server e quindi tendenzialmente uno tende a riutilizzare quei cookie già c'ha passandoseli da una parte all'altra. perché sennò diventerebbe un gran pasticcio. E quindi loro hanno notato che, ad esempio, se io avessi la possibilità di fare quello che viene detto DNS takeover, cioè io po se posso prendermi in qualche modo, tipo ad esempio all'interno di una LAN, perché ho rediretto tutto il traffico DNS su di me e quindi sono io che dico dove stanno le cose. Allora, supponiamo che io possa legittimamente in qualche modo registrarmi o rispondere a una richiesta DNS in modo da far credere che io sono un, che ne so, pippo.teams.microsoft.com e io abbia anche la possibilità di avere un certificato SSL valido per quel dominio. Questa cosa qua non è impossibile, nel senso che molto spesso l'attribuzione di un certificato SSL per questo tipo questo dominio implica semplicemente che io possa, ad esempio, caricare un file preciso sulla macchina per far vedere che io non sto richiedendo quel dominio cioè non avendo però la gestione della macchina. Quindi è una roba che tendenzialmente gli sviluppatori che hanno trovato questo bug dicono se può fare, in qualche modo se può fare. Ora, supponiamo appunto che io lo possa fare. Ecco. A questo punto cosa succede? E qui entra quello che poi è stato lanciato il bug, in realtà c'è tutto questo pregresso non banale, però il bug è stato lanciato come: ah, vedi, io ti faccio visitare un link con un'immagine e ti piglio le credenziali di Microsoft Teams. Poi una volta che ho le tue, entro dentro il team, no? Vedo quali sono gli altri, delle pers le altre persone inserite e inizio a fare la stessa cosa con tutti e piano piano ti onno tutta l'organizzazione. Non banale, però magari in qualche modo fattibile. Diciamo, non per utente sfiga, però se si parla di stati nazione grosse, magari è una roba che giocandoci un po' uno lo può fare più easy. Comunque, l'idea qual è? Io mi devo appropriare di alcuni cookie. Allora, cosa faccio? Ti mando un'immagine. Questa immagine io la carico dentro questo dominio che io gestisco, questo sottodominio che io gestisco, ad esempio, appunto pippo.teams.microsoft.com. A questo punto, per come funziona Microsoft Teams, sostanzialmente te mi vai a, siccome è valido, mi passi tutta una serie di informazioni. Quando mi fai la richiesta e io legittimamente nel momento in cui clicchi su quel dominio posso andare a richiedere i cookie che c'hai sul tuo computer. Perché? Perché arrivano da un sottodominio che è valido, quindi la mia richiesta verrà tendenzialmente esaudita. La policy dice che ok, lo puoi fare. E quindi a questo punto io vedo tutti questi cookie, tra cui anche questi due che loro sottolineavano sono importanti per l'autenticazione. Se mi piglio questi cookie, tendenzialmente io posso fare richieste con i tuoi stessi privilegi, mostrando, cioè facendo finta che, sono la persona che ho attaccato. A quel punto, se riesco sostanzialmente a fare il login dentro Microsoft Teams come la persona che ho attaccato, a quel punto posso chiaramente fare tante cose. E questo era un pochino per spiegarvi questa cosa interessante anche come modello di attacco weboso, cioè questa cosa di fregare i cookie per poi riuscire a impersonare il proprietario dei cookie e un modello di attacco vero utilizzato che insomma era interessante magari da rinfrescare. E ora un altro po' di musica e poi chissà cosa vi racconto. Mi sa che oggi stiamo diciamo sull'informatico spinto perché questo ho fatto questa settimana. rieccomi. Diciamo che se finora vi siete annoiati delle cose di cui parlavo, ora è la botta finale. Nel senso che oggi, un po' per come ho fatto appunto diciamo per come si è svolta la mia settimana, ho una puntata abbastanza tecnica, come ai primi tempi di Coccoli al Silicio, prima di avere questo orario folle del sabato a cena, cioè così dovrà essere quello che prepara le vostre sabati sera folleggianti e frizzanti. Ma in dove? E forse i prossimi, non lo so, oggi già, se avete fatto la passeggiata, direi che per oggi avete dato, ora state anche un po' a casa, che uno non usciva da tanto tempo, bisogna riadattarsi piano piano al mondo esterno, per non rischiare che poi uno appunto ha degli scompensi emotivi, emozionali. Allora, vi dicevo che ho fatto questa settimana. Questa settimana ho affrontato un sacco di questioni pregnanti, e in particolare vi voglio raccontare di questo tipo. Prendetelo come il diario del programmatore disagiato, ecco, sì, appunto, del disagio del programmatore, forse, di alcune cose. Nello specifico, io mi ero piccato questa settimana di tornare a giocherellare con l'analisi degli eseguibili Linux, che hanno un formato ben preciso che si chiama ELF. Io ogni tanto mi picco di pacioccare questo formato. Essenzialmente quello che volevo stavolta era saggiare quanto potevo fare, manipolare uno di questi, un file a caso, normale, cioè un normale file di sistema tipo BinLS o che ne so, un cat, non lo so, un programma del cavolo scritto, un eseguibile ELF normale, banale. E ho detto quanto lo posso aggeggiare tipo in Python? E allora avevo detto, boh, perché? Perché io ho tanto codice C che ho letto, studiato negli anni, eccetera, che fa cose, che aggeggia questo tipo di file, gli ELF, no? In particolare mi ero piccato su uno che fa una roba un po' da virus writer, cioè prende un segmento di questo file e lo fa diventare un segmento. Questo segmento prima si chiamava ptnote ed era un segmento che stava lì a non fa un cazzo, sostanzialmente serve per mettere delle note, ma tanto non lo usa nessuno, è un segmento che si può solo leggere. E questa cosa che mi ero piccato di fare, prende questo segmento e lo usa essenzialmente per farlo diventare invece un segmento eseguibile, quindi leggibile e eseguibile, e dentro ci mette del codice da eseguire, cioè, no? Nell'ottica appunto di quello del virus writer, cioè io scrivo un programma che ormai siamo tutti pratici dei virus, no? Quindi è quella roba lì. Ebbene, mi ero piccato, ho detto, boh, io però c'ho questo codice in C che poi ho accrocchiato perché funziona o non funziona, c'ha delle vere problematiche, e allora ho detto, no, beh, io vorrei farlo in Python, ma ci riesco a farlo in Python? E allora sono andato a vedere un po' di librerie per fare questa cosa, a che punto stanno. E in realtà ho capito che no, non ci riesco a farlo in Python, cioè non ho la stessa flessibilità che avevo con tutte le mie cose in C. Ci riesco, ma le cose vengono fuori peggio, cioè non riesco a mettere tutte le cose a posto, cioè alla fine in C veniva un bel lavorino, in Python cioè anche usando le librerie quelle più figose, no? Cioè ho provato a usare quella che si chiama, sembra gli F, che non mi ricordo cosa vuol dire, però è una libreria Python che sembra anche molto bella, non è anche documentata male, ci sono gli esempi, si capisce, eccetera, però alla fine mi veniva sempre fuori una roba che non mi piaceva troppo. E allora ho pensato, vabbè, questa cosa in Python non la posso fare, però allora magari potrei, prendermi tutto il mio codice C, renderlo disponibile in Python e farmi una libreria tipo mia. Allora, come faccio a fare questa cosa? Si fa nel senso che in Python ci sono dei sistemi per richiamare del codice C dentro il Python. In particolare c'è un modulo che si chiama CTypes che fa esattamente questa cosa. Non fosse che non è banalissimo, perché un conto è se lo devo fare con una funzioncina scema che ha tre parametri, du cagate e restituisce un intero. Facile, tutto questo facile. Un conto è se devo pigliarmi tutta la mia libreria che fa delle cose strambe, che si tira dentro un'altra libreria che si chiama libelf, no? Cioè, e tutte queste cose qui con questi file header pieni di strutture folli che descrivono tutto, appunto, come è fatto questo file elf che è bello contorto. Ebbene, se mi devo fare la traduzione di tutta sta roba qua per farla capire al mio script in Python, allora rinuncio a Python, scriviamo direttamente in C e si fa prima. Mentre mi chiedevo come si faceva questa roba e sperimentavo appunto con questo CTypes, mi è venuto e ho detto, però non è possibile che non ci sia nessuno che non ha pensato che questo lavoro è veramente quello che viene definito in maniera impropria e specista lavoro da scimmia. Ho detto, non è possibile che non ci sia nessuno che non ha pensato di automatizzare questa cosa, cioè perché la devo fare a mano? Alla fine un file header è una roba che appunto con Clang io posso, cioè con una libreria che capisce al codice C, alla sintassi, eccetera, che io posso analizzare e in automatico tradurre, cioè i tipi saranno noti, no? Cioè perché mi devo fare tutte queste robe a mano? E infatti non bisogna, ho trovato un tipo fighissimo che ha fatto una libreria sconosciuta ma bella, un modulo Python che si chiama CTypeslib. E ha fatto esattamente questo, cioè tu ti installi questa roba magica, gli ho dato in pasto il file header di questa libreria condivisa in C che mi ero fatto con tutte le mie altre, diciamo, va varie librerie, varie funzioni C che fanno le cose come piacciono a me, e effettivamente lui mi ha tirato fuori per magia, per pura magia, un robo Python, cioè diciamo quello che serve sostanzialmente una descrizione Python delle strutture e dei tipi di dati che stavano nel file header in C che gli avevo passato, e io quindi praticamente ho dovuto soltanto a quel punto capire, ci ho messo comunque sempre un giorno, però ho dovuto solo capire come creare appositamente cioè oggetti che implementino quelle classi di dati che lui mi aveva autogenerato. E a quel punto ho fatto tutto, cioè nel senso sono riuscito a utilizzare le mie librerie C, cioè la mia libreria condivisa C. Io ho fatto una libreria condivisa con tutte le mie funzioncine per aggeggiare il file elf e riuscire a fare questa sostituzione, rimetterla a posto, cambiare l'entry point, fare l'injecting del codice, tutto quanto. E poi pian pianino ora me la sto riutilizzando in Python. A quel punto, quindi, nel momento in cui io se le funzioni sono fatte decentemente riutilizzabili, hai una libreria da usare in Python, quindi con una certa facilità, no? Perché è più semplice, non devo pensare a fare la malloc, quello e quell'altro ogni volta che ci fo qualcosa, e sotto c'hai un bel substrato di librerie C. E questa cosa qua sono riuscito a farla appunto con questa CTypeslib e sono molto contento. E quindi volevo socializzare questa mia felicità, no, felicità eccessiva, felicità proprio non è il termine giusto, diciamo questa mia, vabbè, ce l'ho fatta in un periodo comunque così, è comunque una piccolissima, minuscola soddisfazione, come la musichina che ora vi vado a mettere, che senz'altro vi darà grossa soddisfazione. Express yourself. Express yourself. You don't never need help. Continuiamo un po' queste divagazioni su cose, sì, essenzialmente da Virus Writer e Reverse Engineering, non so cosa ho detto. Ebbene, qualche altra cosa. Abbiamo parlato appunto di un metodo. Ve lo faccio un po' lunga perché questa settimana l'ho approfondita tanto questa questione e volevo farmi appunto perché sono partito a fare questa perché volevo fare un tool che mi permetta appunto tra C e Python di fare una specie di summa di tutti quei metodi che ogni tanto incontro per aggeggiare i file ELF, no? Quindi io vorrei un robot che posso fare velocemente dei prototipi di questi modi per aggeggiare i cosi e che lo facciano a modino senza dover che ogni volta mi reinvento la ruota. Quindi se ho già del codice C che ne so che mi riordina le sezioni di un certo file ELF, io voglio riutilizzare quello e non che ogni volta mi devo inventare una roba diversa, no? Cioè, se ho già una funzione che all'uopo mi riaggeggia l'entry point, voglio riutilizzare sempre quella. Cioè, se voglio cambiare il nome alla sezione, voglio, che ne so, cambiare un segmento, toglierlo, fargli cose, cambiargli permessi. Ecco, la mia idea era quella lì. E speravo appunto di trovarla in qualche già libreria già fatta. L'ho trovato, tipo questa lì fa tante cose, però non le fa a modino. Tipo, ad esempio, quella del segmento PT Note la fa, però poi mi trovo le sezioni disordinate. Invece il codice che avevo io rimette anche poi in ordine le sezioni ed è molto più bello, a me mi piace di più. E quindi lo volevo fare in quell'altro modo. Un altro tool che uno può guardare se c'ha voglia di capire un po' queste cose è c'è un coso che si chiama Elf Kickers, che è un pool di programmi, di utilità, di cavolatine, e c'ha una directory nel repo del codice che si chiama Infect. Dentro Infect c'è appunto un programma semplice, in realtà da leggere, per quello interessante anche, che prende, cioè cerca se c'è abbastanza spazio tra i diversi segmenti di un programma, di un eseguibile ELF, per inserire un qualche tipo di codice. Il codice deve essere appunto scritto come anche quelli che si inseriscono con quest'altro coso che ho fatto, deve essere abbastanza neutro per essere rilocabile dove cavolo mi pare, quindi non deve avere riferimenti ad altro se non che a, se non a se stesso. Quindi uno lo scrive appositamente. Loro in particolare mettono un payload, uno shellcode, che fa una cavolatina, cioè crea dentro la directory TMP una shell con SuiData. Quindi in realtà io la invoco e la shell mi dà i privilegi dell'utente che ha eseguito quel programma. Perché per l'idea è un po' come questo qua. In realtà questo però è un po' diverso, perché mentre in quello che ho provato a fare io, lo shellcode, il payload forca, quindi da un lato io faccio una cosa e dall'altro vado a eseguire il programma, così se faccio una cosa che mi deve aspettare, sostanzialmente il programma non si ferma. Invece in questo caso qui, praticamente tu esegui questa cosa di creare un file nascosto, gli dai permessi che, insomma, che questo file deve eseguire la shell SuiData, però questa roba qui la fai prima. Cioè, ti metti come entry point del programma e poi il programma aspetta che tu hai fatto questa cosa. Poco male perché è una cosa veloce, però se era una cosa più lunga invece non andava bene e quindi è un po' più grezzo. Però sfrutta un altro sistema appunto di fare injection di queste robe e lo fa andando appunto a cercare se tra il padding tra un segmento e l'altro c'è dello spazio abbastanza per infilarsi. E questo è anche interessante. Infatti volevo pigliarmi sempre il codice C anche di questo e estendere la mia libreria in Python per poter fare questa cosa. Così almeno in un solo tool posso già integrare due sistemi. Mi piacerebbe poi anche integrare un altro sistema ancora, che è quello di giocare con i vari hook init e fini, cioè di hookare le funzioni che vengono eseguite all'inizio, cioè prima dell'inizio del programma e alla fine del programma. E così. E insomma, poi ce ne sono anche altri di sistemi, però appunto lì l'idea è che mi ero messo a fare questa roba. E infatti, se volete analizzare gli eseguibili ELF o tenerne, cioè, o vedere come vengono fuori, no? Per vedere, magari voi lo riaggeggiate, poi per vedere che continui a avere una bella forma e coerente, perché comunque funziona quasi tutto, anche, cioè spesso le cose funzionano, ma anche se sono fatte male, nel senso che il programma esegue. Non è detto che, però se si presenta anche bene è più bello. E c'è un tool che io ho scoperto di recente che si chiama Elf2JSON, che un pazzo si è messo a fare un coso che ti piglia un eseguibile ELF e ti crea una bellissima struttura JSON che ti descrive l'eseguibile ELF, cioè tutti gli header, tutti i segmenti, tutte le sezioni, tutte le cosine. È molto fascinoso. E ora vabbè, vi smetto di annoiarvi con questi di discorsi strambi e invece vi faccio sentire un pochino di musica e poi si ritorna a parlare di qualche nuovo argomento. Non lo so, magari faccio andare due o tre pezzi perché non è che ho preparato grosse cose, ecco. Però la musica è bella, spero che vi piaccia. Ecco, poi non lo so se è anche bella. Allora, continuiamo sempre con questa carrellata di cose assolutamente improbabili, non per sfidare la vostra pazienza, ma perché di questo c'ho da parlare oggi, non... così è. Ma magari vi chiedete ogni tanto, visto che avevamo iniziato a parlare di elf, di formati di file, di eseguibili, ma abbiamo parlato anche all'inizio di attacchi, cose e similari. Che ne so, se volessimo un esempio, ad esempio, di un oggetto avanzato per fare quelle cose che uno pensa facciano gli hacker sulle macchine che riescono a bucare. Per esempio, cioè, tipo, io divento root sulla macchina e poi voglio nascondere le mie tracce. Come lo farò? Uno dei modi in cui si può fare è quello anche un po' meglio, cioè un po' meglio, quello più definitivo, è quello inserire un modulo nel kernel che fa questa roba per me. Un cosiddetto LKM rootkit. Ebbene, se siete curiosi di vederne più o meno uno in stile didattico, c'è un c'è questo, se lo cercate su GitHub lo trovate, insomma, questo progetto che si chiama Diamorphine o vabbè, insomma, Diamorfina e codesto oggetto è appunto un LKM rootkit con diverse funzionalità. Ad esempio, quando lo caricate, parte come invisibile, quindi nasconde a chi guarda con, che ne so, LSMod la propria presenza. Poi è in grado di nascondere e poi rendere di nuovo visibili i processi inviandogli un segnale, il segnale 31, se vi interessa. E, per invece nascondere e rendere visibile il modulo, gli dovete, dovete mandare il segnale 63. E allora, se volete fare invece che l'utente che avete adesso diventi all'istante root, potete mandare un segnale, tu da chi lo mandiamo, segnale, a qualsiasi PID va bene, il segnale 64, quindi 64 boom root. E poi c'è chiaramente una funzionalità per nascondere delle directory, in particolare delle directory che iniziano con un prefisso da voi deciso, che è il prefisso magic prefix. Se voi decidete quel prefisso, no, nel modulo, nel momento in cui chiamate una directory con quel prefisso lì, viene nascosta alla vista, cioè se io faccio ls non la vedo, il processo viene nascosto. Se faccio psox non lo vedo, se faccio ps3 non lo vedo, lsof non lo vedo, insomma, non, questa è un po' il giochino. Se vi interessa invece una roba userland, cioè quella del carne eleganza, però impegnativa, cioè devi avere fatto parecchia strada, c'è un'altra cosa che si chiama Azazel, che è sempre anche di questo c'è il codice, ve lo dico appunto perché sono robe che uno può vedere, poi sono scritte più o meno bene, però quantomeno sono un inizio che uno guarda e dice: ah, guarda, allora quelle cose lì sono fatte così, o si assomigliano a quelle, o uno dei modi per farli è quello lì. E niente, questo Azazel invece è userland, quindi non richiede che siate root, utilizza un altro sistema per intercettare le chiamate di sistema, quindi è meno efficace nei fatti. E quindi niente, se vi volete anche guardare questo, tutta sta roba la trovate su GitHub e così vi fate un giro e imparate a conoscere questo buffo mondo. Poi magari appunto vi intrippate di queste robe e smettete di dormire la notte perché non riuscite a fare il binding delle librerie in C in Python. E non so se consigliarlo, cioè se lo consiglierei a nessuno, ecco, e, però vabbè. Vi lascio della musica, invece la musica la consiglio a tutti, che fa bene all'animo, ecco. E quindi niente, musica, mi sa che poi tornerò, se non trovo più niente da dirvi veramente interessante, magari saluti, un'oretta l'abbiamo fatta, sono le 8 e 5, si può anche andare tutti quanti a mangiare. Oppure potete fare una lunga passeggiata notturna, visto che la potete fare. Uno inizia a camminare, chissà dove arriva, c'è bel tempo, chi lo sa. E tant'è. E dunque, musica, vediamo se mi riesce. Of his hair. Of his high. Rieccoci per i saluti finali. Prima di staccare, vi rendo edotti del fatto che Rise Up ha dei problemi e quindi non funzionano i vari pad. Dunque, se avete cercato di contattarmi sul pad della diretta di Radio Wombat, seppur consapevole, insomma, del fatto che io tanto quel pad non lo guardo praticamente mai quando sono in diretta, quindi sarebbe stato inutile, ma se l'avete fatto, sappiate che non ci siete riusciti, non perché io l'ho sabotato, perché voi non mi poteste contattare, ma perché effettivamente è rotto. Se avete anche dei pad su Rise Up, sappiate che sono rotti per quel motivo lì, quindi non allarmatevi, va tutto bene, però i pad sono rotti e ce ne faremo una ragione, che vi devo dire. Vi lascio quindi ancora un brano musicale fancheggiante e poi con la bobina. Ci risentirà la prossima settimana, speriamo con delle novità anche più frizzanti di oggi. Oggi puntata molto tecnica, però d'altra parte questo è diciamo il periodo della quarantena. Ormai sto a raschiare il fondo del barile, sostanzialmente, e quindi così uno per non impazzire si butta su queste robe e via. Quindi ultimo pezzo e poi bobina. Sì, vi tocca bobina per tutti, ecco. Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bound, blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. What a bear. What a bear. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. It's a family.